Radiazione, radio diretta d'azione della 14 febbraio 2014, un pochino di problemini, giusto appena prima di iniziare, quindi per questo motivo è stata fermata la playlist proprio un minuto prima che andava la diretta, e per questo il motivo che avete sentito forse qualche rumorino in sottofondo, però penso che si è risolto tutto, quindi siamo pure pronti per iniziare la diretta d'azione di oggi, che di solito è di controinformazione e musica rispetto a lunedì in cui ci sono le letture, stiamo leggendo Tortuga. Oggi c'è anche oggi la lettura, non è Tortuga. Oggi da questa cameretta con tanto di aria viziata ci inoltreremo in delle zone nucleari, centrali nucleari, tutto accompagnato da un po' di musica fatta apposta come un po' di sottofondo e anche per tra un pezzo e un altro, sia di controinformazione che di lettura di questo mini racconto ritoccato, un racconto dell'80 che è stato cambiato un pochino perché proprio tutto non lo si poteva leggere, c'aveva dei difettucci il racconto, però certe parti secondo me Marcello abbiamo ritenute fattibili, quindi si vanno a prendere solo quei pezzetti di questo libretto. Per la prima mezz'ora la diretta d'azione andrà avanti solo e solamente con la controinformazione, e poi verso le 6, quando si spera arriverà Marcello, si inizierà anche questa lettura. Ora, prima di darvi gli indirizzi utili, ci ascoltiamo un brano, così io mi rifinisco di controllare queste cose che fanno difetti, sento difetti nelle orecchie, le cuffie, i microfoni, non so cosa sta succedendo. Vabbè, ci ascoltiamo un brano e poi dopo si torna qua e do gli indirizzi utili per radiazione. Thank you. E mentre va ancora la pioggia di questo remix di Excision degli Slayer, di Raining Blood in particolar modo, iniziamo a dare gli indirizzi utili per Radioazione. Radioazione, per chi vuole scrivere, comunicare, iscritti, mandare notizie di controinformazione, per chi vuole mandare anche pubblicazioni che possono essere diffusi tramite il sito di Radioazione, lo può fare a radioazione@autistici.org. Ovviamente non viene sempre tutto pubblicato, si vede quello che è più affine a Radioazione, arrivano tante mail, però purtroppo non si possono pubblicare perché non è, purtroppo non ci si ritrova e quindi non si pubblicano. Diciamo la verità. Invece per il sito è radioazione.org, dove potete, come in passato per il blog, andarvi a leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente quando c'è, dove potete andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione, dove potete scaricarvi anche opuscoli, manifesti, CD e quant'altro trovate nella sezione download. Per la radio invece la state ascoltando altrimenti attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta su Radioazione, ci cliccate sopra e vi si apre la pagina dello streaming. Altrimenti, se non volete tenere aperte due pagine e volete leggere Radioazione, volete fare un confronto tra come legge questo cane che vi sta parlando e quello che sentite, potete fare tutte e due cose dalla stessa pagina del sito di Radioazione. Quindi, tenendo aperto il sito di Radioazione, accendete la radio, c'è il lettore sulla sinistra, sulla sidebar, ascoltate la radio e controllate se io dico cazzate. Ne dico, quindi ve lo premetto. Potete anche evitare di controllare. Per gli indirizzi utili li abbiamo dati tutti. Lo ricordo che oggi diretta straordinaria, va, chiamiamola straordinaria proprio perché Marcello ha dato la disponibilità per esserci oggi. Si voleva parlare di qualcosa, si voleva affrontare pure un pochino il problema del nucleare, però mi sa che tanto tempo non ci sarà a disposizione. Si leggerà sto mini racconto, si farà qualcosa, tutto è dedicato ad Alfredo e Nicola, condannati a novembre per il ferimento dell'amministratore delegato di Roberto Agnoffi di Ansaldo Nucleare. Ora ci ascoltiamo, prima di iniziare subito con la controinformazione, ci ascoltiamo un brano di Rebel Sonics, il brano è Uncle Grinder, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la controinformazione. Problem is, don't leave you with much else to do, does it? Anyway, fuck it. We'll be right back. from prison once. It said if you don't want to end up like me, stay away from crime, women and drugs. Problem is, don't leave you with much else to do, does it? Anyway, fuck it. E allora, questi erano Rebel Sonics, il brano è Uncle Grinder. Come ho detto prima, si passa alla controinformazione, si va un po' indietro con i giorni, si arriva al 7 febbraio, dove in Grecia c'è stata la condanna per il compagno Tasos Theofilou. Leggiamo il comunicato direttamente che arriva dalla Grecia. Il 7 febbraio 2014 l'anarcocomunista Tasos Theofilou è stato condannato a 25 anni di carcere, nonostante lui abbia negato tutte le accuse fin dall'inizio. Una corte di 3 membri ha raggiunto la sentenza di maggioranza invece di un verdetto unanime al Tribunale di Atene. Tasos Theofilou è stato prosciolto da accuse gravi per quanto riguarda la formazione di e appartenenza ad un'organizzazione terroristica. Il suo presunto coinvolgimento nel gruppo di guerriglia urbana con ispirazione delle cellule di fuoco, come da possesso di esplosivi e ordigni. Queste accuse sono anche cadute dal momento che i giudici hanno stabilito che non è mai stato un membro delle CCF, e inoltre falsificazione di 5 carte d'identità, l'uso di un'arma da fuoco e 2 tentati omicidi. Tuttavia, egli è stato ritenuto colpevole di 2 accuse, partecipazione ad una rapina a volto coperto e di essere complice dell'omicidio colposo intenzionale. È stato anche giudicato colpevole di 3 reati, possesso d'arma, contraffazione ripetuta, accusa relativa ai veicoli dei rapinatori e aver ricevuto proventi dal reato, la macchina di fuga dei rapinatori. In altre parole, la Corte ha deciso che apparentemente Theofilou, senza essere un membro delle CCF o di un'altra organizzazione, ha partecipato alla rapina nella banca all'isola di Paros nel mese di agosto 2012. Ma non è colui che ha ucciso Dimitris Mikas, il cittadino che aveva tentato di bloccare la fuga dei rapinatori. Secondo uno dei suoi avvocati difensori, questa è una decisione presa sulla base di una ed un'unica indicazione, un discutibile campione di DNA su un cappello che apparentemente sia caduto a uno dei rapinatori. A meno la richiesta per l'ergastolo è caduta, perché non è stato condannato per omicidio colposo intenzionale. Molti fatti del caso e le prove presentate al tribunale sono state a favore della sua assoluzione. Ad esempio, nessuno dei testimoni oculari ha riconosciuto Theofilou durante il processo. Tuttavia, come era accaduto nel caso del prigioniero anarchico Babis Tsialinidis, anche questo procedimento l'imputato è stato ritenuto colpevole esclusivamente sulla base del DNA, il quale sarebbe stato rinvenuto su un oggetto mobile. La Corte di primo grado ha imposto 16 anni per favoreggiamento ed omicidio preterintenzionale, 15 anni per aver commesso la rapina, 3 anni per contraffazione, 2 anni per porto di un'arma da fuoco più una multa di 5.000 euro e 2 anni per aver ricevuto proventi del reato. Totale 38 anni. La sentenza definitiva è di 25 di carcere. 25 anni. Il compagno ha il diritto di appellarsi contro la sua condanna, ma l'appello non ha effetto sospensivo. Ciò significa che deve rimanere in carcere fino al processo in corte d'appello, ma nel frattempo egli può richiedere anche la sospensione della pena detentiva. Piena assoluzione e libertà immediata per il compagno Tasos Theofilou. E questa era per la prima notizia di controinformazione della giornata, che ci arrivava dalla Grecia. Ricordo che siamo in attesa che arrivi Marcello per iniziare anche questo venerdì questo venerdì stranamente soleggiato, primaverile, non piove, non piove, non è lunedì, non è lunedì, abbiamo fatto una sorpresa al tempo, e quindi Marcello arriva il venerdì anche quando c'è il sole, non solo con la pioggia. Allora, in attesa di Marcello, noi andiamo ancora avanti con la controinformazione, però prima di andare avanti con la prossima notizia ci ascoltiamo un brano, ci ascoltiamo un brano dei Dive con il brano Final Report, che è un remix fatto dai Monolith. Body temperature was 19 degrees below normal, he was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal, he was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal, he was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal, he was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal, he was clinically dead. Questi erano Dive con il brano Final Report. Ora ritorniamo alla controinformazione. Penso che abbiamo anche risolto tutti i problemi qua al mixer. Spinotti che ogni tanto fanno gli scherzetti, è stato sostituito al volo, quindi tutto ok, dovrebbe essere tutto ok. Allora, con informazione si va in Cile con una notizia, una rivendicazione tradotta proprio stamattina, è pubblicata sul blog, sul sito di Radiazione. È la rivendicazione di un attacco al commissariato 21 in Cile. Leggiamo il testo rivendicativo, che inizia con una citazione di Ulrike Meinhof, per chi non lo sapesse, è che su me, se non che una delle dei due che ha creato la RAF, la banda Bader-Meinhof. Allora, vabbè, allora iniziano con questa citazione di Ulrike Meinhof che dice: tirare una pietra è un'azione punibile, lanciare 1000 pietre è un'azione politica, bruciare un'auto è un'azione punibile, bruciare 100 auto è un'azione politica. Protestare significa lamentarsi che a questo o a quello non è giusto. Resistere significa garantire che quello con cui non sono d'accordo non accada di nuovo. Ulrike Meinhof. Invece il testo della rivendicazione dice: stasera il fuoco abbraccia di nuovo le braccia ribelli per la distruzione di questa società miserabile. Abbiamo deciso di renderlo pubblico questa volta. Bruciare un'auto è propaganda. Decisi a stare qui, continuando senza paura, anche se dispiaciuti, ma mai sconfitti. Sebbene bruciare auto lo intendiamo come propaganda, è anche un attacco diretto dove gli fa più male la proprietà privata. In questo maledetto paese è più importante la proprietà privata che la vita umana. Ricordiamo l'accusa imputata a Tamara Solfarias, basata principalmente nel furto, il furto di un'arma da fuoco. Senza essere molto esperti in materia legale, il furto diventa più aggravante che tentativo di uccidere qualcuno. E io sottolineerei: fatevi i cazzi vostri, cari compagni, che hanno dato il furto, meglio il furto che l'uno intendato omicidio. Anche se questa volta sapevamo che era molto probabile che il fattore buon cittadino sarebbe apparso come un Robin Hood e frustasse i nostri desideri piromedi di attacco, rischiamo ugualmente per ridergli in faccia e mostrargli quando siano vulnerabili di fronte a molta volontà e un po' di benzina. Che questa azione sia una boccata d'aria per i compagni sequestrati in carcere e una chiamata di attenzione per chi si trova in strada. Vale di più un'azione più piccola che 100 comunicati vuoti di attacchi, parola e azione. Eccoci, siamo qui e non dimentichiamo nessuno dei nostri compagni caduti lontano. Quest'ultimo scoppio del questo non è stato tradotto perché non si capiva cosa volevano dire, del Pelao Angry, esplode in tutti i commissariati di polizia. Panchi Mauri, Claudia Lopez, Matias Catrileo, Giordi Garicheo, che ancora camminano con noi. Alpaca, Hermes, Hans, i prigionieri accusati di aver ucciso lo sbirro Moiano, prigionieri della lotta di strada a José Miguel Sánchez, prossimo alla libertà. E la nostra compagna Sol, salutando il tuo coraggio e la tua dignità. Per un'estate nera ed un anno ancora più nero, viva l'anarchia! E questo era il testo che arrivava dal Cile, che dovrebbe, mi sono dimenticato di aggiungere la firma, dopo l'aggiungiamo, sarebbe Amici del Fuoco, una cosa del genere. Ci avete capito poco di questo testo. La traduzione è stata fatta, il casino è che purtroppo è scritto male. E qua non si tratta di dire la grammatica italiana, è proprio scritto male nei pensieri, cioè nel senso che non si capisce un cazzo, cioè in alcuni passaggi non si capisce veramente niente. Danno per scontati dei soggetti di cui non parlano mai in tutto il testo. Vabbè. Comunque, tanto di cappello al gesto. E più che altro la prossima volta, visto che si è molto poco, non si è molti effetti in materia legale, se ci si facesse cazzi nostri a dare a pensare che Tamara Sol è stata solo gli è stato imputato solo il reato per furto di arma da fuoco e non quello di tentata d'omicidio, ma secondo me se ricordo bene c'è anche tentata d'omicidio per Tamara Sol, quindi no. Però non andiamo a mettere la pulce nell'orecchio dei repressori, già ce ne hanno tante e già ce ne mettono pure tante a noi di cimici dappertutto, quindi evitiamo queste cose per favore. Ora ci ascoltiamo ancora un altro brano prima di passare alla prossima controinformazione, che stavolta è dall'Italia, quindi il ping pong tra Cile e Grecia è andato avanti fino ad ora, si spezza e si va in Italia fortunatamente. Però prima ci ascoltiamo un brano di Chase and Status con il brano Madhouse e poi dopo si torna qui con notizia dall'Italia. What up though? You ready? Ladies and gentlemen, to those among you who are easily frightened, we suggest you turn away now. To those of you who think they can take it, we say, welcome to the Madhouse. We in this motherfucker, we going crazy. Hoodies up, trainers on, everybody shady. Taking shots at the bar, the liquor don't faze me. Gentlemen and ladies, welcome to the Madhouse. The bass will blow your chest off, we party on the low end. Staring at the DJ, we know we finna go in. We going all out, everybody showing out. Ladies and gentlemen, welcome to the Madhouse. The bass kick hits low, certified schizo. Ears ringing all night, you know how this shit go. Acting like you don't, when you know what this shit about. I'ma say it one welcome more time to the Madhouse. Massive in the dance, got that magic in my hands. I'ma take a quick pull, then I pass it to my mans. Then I'm so lit, on one, banging to the song done. Damn, what you looking at? Homie, I'm the wrong one. Bad man, big boy, playing with them sick toys. Hate to get up in this bitch, I'm making big noise. Screaming on these motherfuckers. What it is, my whole team up in this motherfucker. My clan, my clique, my crew, my troop. We sweating up a storm, we ain't trying to be cute. Assholes, elbows, Timbo, shell toes. 2 a.m. the bar closed, we going home? Hell no! Yeah! It's murder. Chase the status. Certified world's greatest. What up, you daddy? Turn away now. Yeah. Bro, what up, bro? All that shit, man. If you don't like this shit, man, you know what? Get on your bike, man. Whatever. What up, though? Shout out to LA. To the UK. What? Pure Small, bro. Pure Filth 3X. What? Breakage in my motherfucking DJ Magi. Ladies and gentlemen, to those among you who are easily frightened, we suggest you turn away now. To those of you who think they can take it, we say, welcome to the Madhouse. We back at it, analog static. Music so thick that you feel like you could grab it. The bass cabinet slapped in, everybody packed in. It feels like you trapped in a motherfucking Madhouse. Insane and crazy, sick with it, maney. Berserk bananas, can't none of y'all save me. I'm out of line, I'm ahead of my time. Take a look into my mind, it's a motherfucking Madhouse. Blacked out, hammered down, nigga, why you standing around? Everybody standing around, come on and we getting down. Throw your hands up, chase the status, this is killer shit. Ladies up in this welcome bitch to the Madhouse. I can't hear you over this baseline. Shut the fuck up, bitch, y'all niggas can't rhyme. Y'all niggas can't rhyme. Y'all niggas can't rhyme. I can't hear you over this baseline. Shut the fuck up, bitch. Y'all niggas can't rhyme. Y'all niggas can't rhyme. The motherfuckers can't rhyme. Hey, word up, look. From Mid City to Brixton, motherfuckers talking shit, man. Like, I've been shit way before y'all motherfuckers thought it was cool. So say what you want, but you can suck my dick, man. Shout out DJ Magi, Chasing Status, Living Legends, Merce motherfucker for president. Turn away now. E loro erano Chasen Status con il brano Madhouse. Come detto, si va in Italia, finalmente si arriva in Italia con la controinformazione. Mi ero dimenticato la volta scorsa di pubblicarlo e leggere questo testo che arriva da Trento e che praticamente è una rivendicazione di un attacco al tribunale di sorveglianza. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo. I compagni in AS2 a Ferrara hanno la censura e le restrizioni sulla posta da parecchi mesi e sono in isolamento. Nico, Chiara, Mattia e Claudio hanno delle pesanti restrizioni come i primi. A questi ultimi hanno vietato i colloqui con i familiari e con i loro affetti, così facendo vogliono annientarli e tenerli zitti. Si è piazzato l'ordigno a Trento contro i magistrati di sorveglianza per dare voce a loro e a tutti quelli che sono rinchiusi e lottano con dignità. Così si manda in anticipo un saluto ai prigionieri che inizieranno la lotta ad aprile sperando che la lotta si infiammi. La magistratura e i benpensanti parlano di violenza, ma la nostra violenza rispetto a quella della magistratura e della parata è poca cosa, e le sofferenze e le uccisioni inflitte da loro ai detenuti, come mesi fa è successo a Trento. Non siamo ipocriti come voi, ci rivendichiamo la violenza anche contro le persone che sono responsabili di tutto. Solidarietà a Spiros Stratulis, Tamara Vergara, Sabbi, Andrea, Gabriele, Monica Caballero, Francisco Solar e a tutti quelli che lottano e hanno delle restrizioni da parte della magistratura. Questo era il testo che arrivava da, per quanto riguarda l'attacco al tribunale di Trento. Volevo fare una breve precisazione sempre per quanto riguarda un'altra cosa in Italia e dopo leggeremo qualcosa scritto dalla compagna. Praticamente la compagna indagata è detenuta fino a qualche tempo fa per l'operazione a dire, ha appena informato che la notizia riguardante l'esito dell'udienza preliminare del 17 gennaio scorso è falsa. Il reato per 270 bis è caduto solo per Paola, Giulia e Alessandro, che essendo sotto Alessandro, che essendo sotto entrambe le procure, tra l'altro non gli cambia niente sul fronte delle restrizioni. Per quanto riguarda i compagni del filone milanese cosiddetto, ossia Liso, Stefano, Peppe, Sergio e Katia, hanno ancora le indagini aperte e non ho cambiato un cazzo. Si ricorda che 5 campagne ancora sono sotto restrizioni feroce e non c'è ancora luce in fondo al suo tunnel di merda, come ci dice la compagna, di cui dopo leggeremo un testo molto più approfondito proprio sull'operazione a dire. Testo che ho da qualche giorno, però stavo aspettando, mi ha chiesto di aspettare un paio di giorni, lo leggiamo in radio e poi al limite o stasera o domani mattina si pubblica anche sul blog. E questa era per quanto riguarda due notizie che arrivano dall'Italia. Ora andiamo ancora avanti con la musica, sempre nell'attesa di Marcello. Ci ascoltiamo un brano di Test Department, il brano Sweet Sedition, e poi dopo si torna qui e si ritorna ancora a fare controinformazione. Thank you. E allora, dopo il brano dei Test Department, si passa con una breve notizia di controinformazione che arriva dal Messico, dove ci sono state delle perquisizioni a casa di alcuni compagni anarchici. Nella notte del 31 gennaio, agenti della Polizia Federale hanno fatto irruzione in due abitazioni per eseguire mandati di perquisizione. Una volta entrate non hanno trovato nessuno in entrambe le case. I vicini di casa hanno capito cosa stava succedendo, risultandogli strana la presenza di circa 20 persone vestite di nero all'ingresso, le quali, non ricevendo alcuna risposta agli appelli, hanno forzato la porta di una casa e la serratura dell'altra. Per motivo di sicurezza i nomi degli abitanti delle case non verranno diffusi. Senza dubbio riteniamo importante far sapere questi fatti, visto che sicuramente fanno parte della caccia alle streghe che lo Stato messicano ha avviato contro gli anarchici. Questi mandati sono relazionati ad indagini in corso che la PGR sta conducendo per il terrorismo. Ci preoccupa soprattutto il fatto che questi mandati siano stati fatti in modo irregolare. Senza la presenza degli abitanti, loro possono dire di aver trovato qualsiasi cosa durante la perquisizione. Per il momento non si sa altro, non dubitiamo che le perquisizioni continueranno. Croce Nera Anarchica Messico. E questa era per quanto riguarda la notizia che arrivava dal Messico sul continuo forzare la mano dalla parte dei repressori nello Stato messicano. Solo nell'ultimo mese ne sono successe di cotte e di crude, quindi anche a una distanza di migliaia e migliaia di chilometri si riesce a immaginare qual è la tensione. È stato anche notato con l'allontanamento di Alfredo Maria Bonanno, non è stato proprio fatto fatto atterrare e poi rispedito indietro, quindi immaginate la situazione di merda che c'è da quelle parti. Allora è arrivato Marcello, sta salendo, quindi forse già sta qua dietro alla porta, non vuole fare rumore per non far sentire il microfono. Quindi ora ci ascoltiamo un brano e poi dopo si ritorna qui. Die Liebe unter meiner Haut. Ich trag die Seele in den Augen, die hinter dünnstem Glas nach draußen schaut. Ich will nicht eure Wände ziehen, es gibt nur eins, das mich zerbricht. Ich will mich einfach nicht verlieren, nein, eure Lieder sing ich nicht. Ich lebe immer noch. Ich trage nur das Schwarz, das mir gefällt. Ich trag auf meinen schmalen Schultern wie Atlas schwer die Last der ganzen Welt. Ihr seid so bunt und farbenfroh, ihr seid das Licht, ich wenn's erlischt. Ihr positiv, ich gegen Pol, ihr seid so grau, wenn man euch mischt. Ich lebe immer noch, immer noch. Ich gebe immer noch, immer noch. Ich taumle weiter, vorwärts, abwärts. In meinen Adern fließt das schwarze Blut. E allora, questi erano gli Asp con il brano Schwarzes Blut. Ora si passa alla controformazione con una traduzione che è appena arrivata ora. Visto che Marcello è anche lui è arrivato ora, gli diamo un attimino un po' di tempo per adagiarsi a quest'aria viziata della cameretta. Oggi non piove. Si passerà dall'aria viziata alle centrali nucleari. Buonanotte. Allora, approfittiamo quindi della traduzione che ci è arrivata ora dalla compagna che faceva la diretta d'azione qua con me il venerdì tra ottobre e dicembre. È praticamente la traduzione un testo scritto da compagno Christos Tsakalos, compagno delle CCF. Un testo che praticamente fa di seguito, vorrebbe, poi c'è da vedere se si trova con Nicola, vabbè, un seguito all'urgenza dell'attacco, testo scritto dal compagno Nicola Gaia, del compagno arrestato insieme a Alfredo Cospito per il ferimento di Adinolfi. Leggiamo direttamente il testo di Tsakalos, contributo del membro del CCF Cristo Tsakalos al giornale Nihilis March e al blog di controinformazione Parabellum. L'urgenza diretta dell'attacco, parte seconda. Continuazione della conversazione iniziata dal compagno italiano Nicola Gai. È diviso in punti. Il primo punto: i produttori dei miracoli della salvezza sociale. Viviamo in un'epoca cupa, prevedibile e meccanica. Viviamo in una dittatura di numeri sulla crisi finanziaria, delle statistiche sulla disoccupazione, delle analisi di mercato, delle azioni e di paura sociale generalizzata. Nello stesso tempo, i mercati umanitari delle ideologie progressive stanno cercando nuovi clienti. I produttori erranti dei miracoli pubblicizzano la loro mancanza ideologica e promettono la cura sociale. Le risorse alternative di energia, la crescita industriale verde, tassazione equa, rispetto dei diritti dei lavoratori, assicurazione medica, stato sociale. Tutto questo è seguito da vari ciarlatani anarchici che pubblicizzano più buffonaggine per utopia che viene. Giustizia sociale, autogestione dei mezzi di produzione, democrazia diretta, consigli dei lavoratori. Ma anche i rimedi anarchici per la salvezza sociale, anche se promettono di liberare le nostre vite, non fanno altro che riprogrammare l'apparato sociale utilizzando un manuale solo più libertario. Un gatto, anche se dal colorato nero è di rosso, se colorato di nero e di rosso, rimane sempre un gatto. Ma perché esiste anche negli ambienti anarchici questo bisogno di presentarsi come medici delle sfide sociali? L'anarchia non è un antidoto fibrifico, è un veleno. Non attenua il dolore, né ci fa cullare nelle future promesse di una società giusta, bensì il contrario. Esso avvelena il pensiero e l'azione, mirando alla distruzione dell'esistente e alla creazione delle passioni e tensioni inesplorate, che non hanno nulla a che fare con il vecchio mondo. Sfortunatamente in questa epoca ci hanno insegnato di valorizzare la vita come un oggetto. Noi non viviamo più le nostre vite, noi le compriamo a piccole dosi. Compriamo oggetti per essere felici, compriamo ideali per avere qualcosa in cui credere, compriamo le relazioni per comunicare, compriamo il tempo per goderlo. Tutti quei rimedi che propongono una vaga futura rivoluzione non dicono una parola sulla distruzione della città del potere. Nella loro versione più anarchica si soddisfano nel proporre la distruzione di qualche infrastruttura materiale, prigioni, ministeri, eccetera, eccetera, del vecchio mondo. Questo significa, in poche parole, che il resto delle spoglie di guerra sarà salvato. La tecnologia, il lavoro, la civiltà, il potere della maggioranza perseguiteranno la nuova utopia nella nostra esistenza. Per noi la nuova guerriglia anarchica non si tratta solo di distruggere un edificio o una persona, ma di distruggere tutte le relazioni sociali. Per noi le proposte politiche del movimento sociale che semplicemente chiedono un mondo più giusto, più equo, ma ugualmente prevedibile e cupo, non bastano. Non vogliamo essere nuovamente schiavi del possibile, dei numeri e delle analisi. Per questo non cerchiamo i programmi rivoluzionari preconfezionati e le risposte ad ogni cosa. Che valore potrebbe avere la vita se rimanesse senza domande? In continuazione leggiamo le analisi, le proposte, i programmi, anche i testi anarchici pieni di definizioni, con termini complessi e bibliografie infinite, che cercano di spiegare la loro utopia, di dare una soluzione, di persuadere le persone sulla loro validità. Ci propongono un marxismo stantio ed esercizi di forza intellettuale. Troppe parole furono scritte per dimostrare il loro sapere. Certi conoscono molto bene il gioco delle parole e ammirano se stessi. Però alla fine la domanda più interessante resta come attaccare oggi e come vivere adesso in un modo più pericoloso e libero. E questo era il primo punto toccato dal compagno Christos Zagalos come continuazione al testo di Nicola, l'urgenza dell'attacco. Ora, prima di passare al secondo capitolo, facciamo un'altra pausa, perché il testo è lungo ovviamente. I greci, quando ci si mettono a scrivere, si danno da fare, quindi un bel testo lungo, e noi lo spezzettiamo ogni tanto con un brano. Ora ci ascoltiamo un brano di Jesus and Neubaden, Sand, e poi dopo si torna qui con il secondo punto di Christos Zagalos e l'urgenza diretta dell'attacco. Allora, erano Jesus and Neubaden con il brano Sand. Allora, stavamo leggendo il testo di Zagalos. Passiamo al punto 2, leggeremo il punto 2 e punto 3. e poi faremo un'altra sosta perché qua sono 6 pagine di roba. Allora, secondo punto, attaccare. Per questo motivo voglio continuare la conversazione iniziata con il compagno Nicola Gaida a Caccia in Italia sull'urgenza diretta dell'attacco. Quindi, parlando del continuo attacco anarchico, riteniamo che la coscienza è il punto di partenza, perché tutti troppo spesso, come scusa per la sospensione dell'attacco, rubano le parole più belle, ed è necessario quindi definire cosa intendiamo con le parole coscienza anarchica. Per noi la coscienza non sono solo le continue analisi, esposizioni sulla polverosa conoscenza storica, assemblee accademiche con i discorsi politici, monologhi infiniti e noiose ricerche accademiche. Non abbiamo bisogno né dei discorsi pomposi né dei fronzoli espressivi per convincere un pubblico o per rafforzare il mito del rivoluzionario romantico, sognatore e cosciente che sacrifica se stesso per la salvezza degli altri. Non ci interessano le masse o le approvazioni. La coscienza inizia con un semplice pensiero, una riflessione diretta, una rivolta individuale. La coscienza è il modo in cui concepiamo noi stessi e la nostra unicità, il modo in cui costruiamo le relazioni e comunichiamo con gli altri, il modo in cui viviamo le nostre vite, non come una situazione scontata e prevedibile, ma come una sequenza di conflitti da cui scopriamo nuovi valori, esperienze ed emozioni. La coscienza anarchica è il modo in cui viviamo, ci innamoriamo, godiamo di noi stessi, sogniamo. Queste cose non possono essere trovate solo attraverso i libri e nei discorsi politici. Vogliono analizzare tutto. Inoltre siamo in guerra e non ad una conferenza d'economia o un concorso letterario. Nella situazione quando l'individuo armato si scontra con il potere, è lui che trasforma le sue parole in azione significativa e non colui che pronuncia le magnifiche parole. Quindi il nostro attacco è il risultato delle nostre coscienze e del nostro desiderio di fuggire dalle regole e dai compromessi dell'apparato sociale, ma anche di distruggerlo. L'attacco contro il sistema, esplosioni, rapine, esecuzioni, sabotaggi, incendi, non sono solo dei mezzi di una lotta invisibile, ma sono la lotta in sé, il nostro modo personale di vivere liberi qui ed ora. Non si tratta di un feticcio armato dei mezzi, bensì di un differente approccio alla varietà della lotta, che colpisce i freni teorici e abolisce gli aspetti della violenza. Una rapina anarchica della banca alla banca o l'esecuzione di uno sbirro non è un'immagine spettacolare come la rappresentano i media, come un romanzo giallo. Si tratta di un'intera procedura tra compagni che pensano, parlano, propongono, decidono, pianificano e trasformano le loro parole in azioni. È una situazione viva in cui le relazioni, la forza e le emozioni sono messe alla prova. È desiderio in movimento e sottoporsi al rischio, perché non c'è vita senza rischio. Tutte le ore lavorative delle conversazioni accademiche non possono essere paragonate ad un singolo momento dell'azione diretta. L'anarchia incontra la sua vita nell'esperienza, solamente quando uno dice di armarsi, di mettere il cappuccio e porre fine una volta per tutte all'orologio programmato della sua vita. E questo era il punto 2, invece ora il punto 3 ci dice la triste bugia sulle lotte sociali intermedie. Naturalmente sappiamo che attraverso la storia solo una minoranza degli individui era pronta a vivere e morire per quello in cui credeva, però questo non diminuisce né il valore né il piacere della lotta. Inoltre, l'eterna fantasia sulla preparazione delle grandi masse come requisito per l'attacco contro l'autorità può portare solo al rinvio. Per noi l'anarchia è soprattutto una scelta individuale da cui scaturisce un inasprimento della lotta per una rivolta collettiva. È una scelta che sperimentiamo qui ed ora, utilizzando con tutta la forza e l'audacia tutti gli strumenti dell'attacco a nostra disposizione. Dall'altra parte gli anarchici civili cercano disperatamente la classe proletaria cosciente, che sarà trasformata nell'avanguardia della rivoluzione sociale con un semplice gesto amichevole. In questo modo i veterani della teoria si nascondono dietro i termini rinvii, aspettando le mature circostanze oggettive. Contemporaneamente essi esprimono profonde critiche e lanciano furiosi attacchi contro ogni compagno che oltrepassa la linea di quello che è socialmente accettabile, nella logica della misura e della mediocrità. Ad esempio, tutti gli anarchici socialisti si accontentano di piccoli attacchi simbolici, perché sono coperti dalla partecipazione di molti, così che qualcosa va male, ognuno può pensare che non sarà lui ad essere preso, perché non ci sono serie di conseguenze penali, le prigioni terrorizzano i presunti futuri distruttori dell'esistente. E ovviamente perché non vogliono spaventare la gente, non serve essere un candidato elettorale per essere un politico. In questo modo è stata creata l'incolume routine della militanza anarchica, che si adopera in piccole dosi prendendo parte agli insignificanti scontri di strada, ogni tanto durante le pubbliche manifestazioni. Non vorrei essere frainteso, io considero ogni lancio di una molotov come un respiro all'interno della prigione metropolitana. Inoltre, tutti noi hanno vissuto la prima esperienza insurrezionale in questi scontri di strada, in mezzo ai lacrimogeni, incendi e inseguiti dalla polizia. Ma utilizzare queste pacifiche manifestazioni pubbliche come un'opportunità per i sabotaggi e gli attacchi è una cosa, mentre considerare questi conflitti di opportunità come un limite accettabile e come l'unica possibilità dell'insurrezione sociale è un'altra. Niente e nessuno può limitare i nostri desideri e atti di attacco in nome di quello che è socialmente accettabile. Una società che non è spaventata dall'etica schiavista, dalla dittatura del denaro, dalla freddezza della tecnologia, della distruzione della natura, ma è spaventata dal fatto che qualche sbirro funzionario del governo può capitare sotto un colpo del Kalashnikov dei guerriglieri urbani anarchici. Per noi essa è insignificante e ostile. A questo punto penso che sia necessario parlare dei rapporti di classe e delle lotte intermedie. Purtroppo molti compagni anarchici insurrezionalisti portano ancora l'eredità sociale degli anarchici tradizionali. Molti testi anarchici parlano della necessità di collegarsi alla società. In questa frase si cela il complesso del senso di colpa per essere differenti. Perché dovremmo collegarci alla società? Noi facciamo parte della società da quando siamo nati e da quando abbiamo imparato le sue regole. Però adesso, come anarchici, noi la rifiutiamo e la combattiamo, perché l'unica cosa che ci può offrirci è il compromesso, e l'oppressione e la noia. Perché allora dovremmo ritornare nel grembo e collegarci con tutto quello che abbiamo già respinto? Il concetto di collegarsi con le altre parti sociali in lotta come requisito necessario per stimolare la sovversione e l'insurrezione non è molto differente da quello che vogliono i partiti comunisti, che guidano le masse verso la rivoluzione sociale. Noi non crediamo nelle avanguardie, né aspettiamo che la massa inerte impari a respirare liberamente. Come scrisse Novatore, tu aspetti la rivoluzione, così sia, la mia è già cominciata da tempo. Inoltre, se vogliamo parlare della lotta di classe, dobbiamo ammettere che la coesione della classe operaia è basata unicamente sulle condizioni economiche coercitive, vissute dagli oppressi e non su qualche affinità di impressioni, scelte, valori e pratiche. Questo significa che l'ordine sociale è più una regola coercitiva del potere che una cosciente comunità di persone. Noi non cerchiamo alleanze tra le coercizioni, ma nelle scelte di ognuno. Noi non ci accontentiamo di effimere alleanze con quelli che potremo incontrare sulla strada o dietro le barricate, solo perché i loro salari sono stati ridotti o sono stati licenziati, senza mettere in dubbio o rinnegare l'etica del lavoro per un solo istante. In breve, le pietre lanciate dalle masse per ottenere il diritto al lavoro, un buon salario e la garanzia della pensione non sono le stesse delle nostre. Noi rifiutiamo il lavoro e il mondo dei padroni. Per questo motivo noi cerchiamo quelli che vogliono recuperare i benefici dei diritti del lavoro, del perduto stato sociale, ma bensì quelli che sono disposti a perdere tutto per recuperare le loro vite dal nulla. A parte questo, tra i primi troverai i più grandi traditori, i quali saranno i primi ad abbandonarti, vendendoti o addirittura rivoltandosi contro, quando si troveranno dinanzi ad un'allettante promessa che li solleverà economicamente. A contrario, tra i secondi scoprirai i più autentici e stretti amici e compagni. Questo non significa che rimaniamo neutrali in nome di qualche purezza ideologica. Quando è in corso una lotta sociale intermedia, noi invece cogliamo l'opportunità di attaccare ancora e ancora. Ma noi non ci perdiamo nella massa dei lavoratori o nelle assemblee popolari per convincere o per essere convinti. Noi tracciamo la mappa della città e portiamo la guerra ovunque noi vogliamo. quando gli sbirri sono occupati con gli scontri in centro. Alcuni di noi non devono essere là per contribuire al lancio di un'altra Molotov. Approfittiamo dell'assenza militare degli sbirri nelle altre parti della città e attacchiamo le stazioni di polizia, banche, negozi di lusso, portando ovunque causa dell'insurrezione anarchica. Ci piace mettere in gioco le nostre vite lontano dalle lotte difensive. E questo era il terzo e lungo capitolo dello scritto di Zakalos. Ora una boccata d'aria, ma una boccata d'aria, un brano che ancora non avevo scelto. Cosa ci ascoltiamo? Ascoltiamoci Special Force di Front 242 e dopo si torna qui e che facciamo? Finisco io, sì, finiamo il manifesto, grazie Marcello. Ok, io speravo nella moda di Marcello, si aspettava lo scritto. No, va possiamo bene, possiamo anche cominciare. No, finiamo lo scritto, va benissimo. Quindi Front 242 Special Force e poi dopo si torna e si va a concludere lo scritto di Christos Zakalos. Vabbè, dopo aver preso una boccata d'aria viziata, cameretta viziata, per forza, con il brano di Front 242, riprendiamo con l'ultimo capitolo dello scritto di Sakalos, sull'urgenza dell'attacco, uno scritto che continua quello fatto da compagno Nicola Gaia nell'estate scorsa, è pubblicato anche su Radiazione, lo potete andare a trovare. Allora, punto 4, la FAI FRI, la rete delle cellule. La proposta di FAI FRI soddisfa questo nostro desiderio e trasforma l'urgenza diretta dell'attacco nell'esperienza pratica qui e ora. FAI FRI non segue l'orologio delle lotte sociali, le lancette del suo orologio personale sono fisse qui, su qui ed ora. Attraverso la teoria pratica di tutti noi, anarco-nichilisti, anarchici anticivilizzatori, arcaoci, noi creiamo una nostra rete internazionale di cospirazione e azione diretta e attacchiamo per primi. Creiamo piccole cellule flessibili sparse nella trasparente prigione sociale della metropoli che attaccano a sorpresa in modo coordinato. In questo modo FAI e CCF testano la propria rete che mira ad avvelenare il funzionamento del sistema. Non esistono protocolli o statuti, così ognuno può partecipare nell'avventura della nuova guerriglia urbana anarchica. Ogni individuo si può unire con i compagni più stretti e creare una cellula FAI per partecipare alla rivolta internazionale della Internazionale Nera degli Anarchici della Prassi. In questo modo si creano celle che, senza conoscersi a vicenda, sviluppano relazioni d'affinità tra di loro e promuovono l'azione diretta, inclinazione antisociale e la solidarietà internazionale. Questi sono i tre punti chiave su cui poggia la FAI. Questo non significa che FAI FRI è un'organizzazione centralizzata che assorbe ogni differenza nel nome dell'uniformità. Al contrario, le cellule FAI scoprono le loro convergenze e i loro produttivi disaccordi attraverso le loro azioni. In questo modo, attraverso differenti comunicati, inizia un significativo dialogo che non mira a scoprire un'unica verità, bensì promuovere l'evoluzione della teoria pratica. Solo attraverso il disaccordo e la dialettica tra i compagni si giunge all'evoluzione dell'individuo e ad affilare l'intensità della vita. Noi compagni che partecipiamo al progetto FAI FRI proveniamo da paesi diversi, ma apparteniamo anche a differenti tensioni anarchiche. Tra di noi troviamo anarchi nichilisti, caotici, anarco anticivilizzatori, antisociali, antispecisti, che scoprono la nostra affinità attraverso le nostre azioni. Perché, come è stato già scritto, le parole spesso portano a dividerci, ma le nostre azioni ci fanno incontrare di nuovo. Quindi la FAI non porta nessun marchio ideologico né tollera i dogmi ideologici, ma riconosce la sua diversità e le tensioni e promuove una continua insurrezione anarchica. I testi come L'urgenza dell'attacco, scritto dal compagno Nicola Gai, ci offrono un terreno per conoscerci meglio e per parlare. Per questo è importante che il dialogo continui con i testi, lettere di prigionieri e comunicati delle azioni dirette. La FAI diventa ogni giorno sempre più forte, la nuova anarchia si sta diffondendo nei luoghi dove l'Internazionale Nera era fino a ieri solo una voce. Australia, Russia, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Perù, Finlandia, Bolivia si aggiungono ai paesi già contaminati dalla FAI, come l'Italia, Indonesia, Grecia, Regno Unito, Cile, Messico e Spagna. E adesso la scommessa cresce più vigorosa, l'azione diretta degli anarchici della Prassi uccide le inibizioni e la codardia degli anarchici tradizionali, impauriti dal rischio perché non vogliono perdere le loro illusioni sull'eterno momento della ribellione di massa. Per questo motivo, quando la FAI e CCF praticano l'azione anarchica, i devoti del movimento anarchico reagiscono con paura, si difendono e calunniano quando si arriva alle azioni che vanno oltre la loro retorica pseudo-anarchica. Abbiamo chiuse con le scuse da codardi, dei codardi. La bugia sulle condizioni oggettive e mature, l'aspettativa della coscienza sociale e l'alibi delle piccole azioni simboliche in modo che ognuno può utilizzare questi strumenti di lotta diventano troppo noiose. Noi stessi creiamo le condizioni, non aspettiamo le masse per andare all'attacco e allo scontro con l'autorità. E sicuramente non c'è bisogno di uno specialista in violenza per creare un ordigno incendiario o per premere il grilletto di una pistola. La coscienza anarchica e il desiderio dell'urgenza diretta dell'attacco è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Fai e CCF, insieme a tutti gli anarchici della prassi, attaccano la pace dei molti e creano la possibilità per la realizzazione di una vita libera e anarchica. Se vieni su questo mondo solo per contare i tuoi giorni e poi morire, non hai niente da temere. L'uomo quieto non si fa mai male. Il fatto è che la bruttezza di questo mondo fu costruita da uomini quieti. Perché gli uomini quieti, con la loro apatia, aiutano a peggiorarne la bruttezza. Creiamo 10, 100, 1000 cellule FAI FRI. Lunga vita all'internazionale nera degli anarchici della prassi. Niente meno di tutto. Cristo Zagalos, membro della cospirazione delle cellule di fuoco FAI FRI, prigione di Corridallos, settembre 2013. Poi c'è una nota alla fine: questo testo è stato scritto nel settembre 2013 e pubblicato nel terzo numero del giornale Lilis March. Il blog Parabellum non è più attivo ed è utilizzato solo come archivio. E con questo abbiamo finito il lungo scritto di Christos, che vuole essere di continuo allo scritto fatto da compagno Nicola Gai, se ricordo bene tra giugno e luglio dell'anno scorso, l'urgenza dell'attacco. Ora ci ascoltiamo, tanto per introdurre la lettura, il racconto, questo racconto un po' modificato, tagliato in varie parti, riadattato per questa situazione. E nemmeno a farla apposta abbiamo preferito anche leggere questo testo prima di iniziare il racconto, proprio perché... E nemmeno a farla apposta, se ci fossimo organizzati come contenuti non ci saremmo... E quindi, cioè, proprio per il fatto che comunque due compagni stanno in galera per aver ferito, azzoppato il responsabile principale dell'azzardo nucleare in Italia, Roberto Di Norfi, devono scontare tra i 10 e i 9 anni di carcere. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, Chain Lab con il brano Atomic Automatic, e poi dopo si inizia subito la lettura di questo raccontino, non è un libro come le solite letture del lunedì, ma un racconto breve tagliato in varie parti, però un venerdì senza ok, allora Chain Lab, Atomic Automatic. Hey! the black and stain into the heart of the Bruce Bruce Wayne. Nothing so deep it can't be dug up. Nothing so clean it can't be fucked up. Duck low, you might avoid detection. Total lobotomy is your best copy protection. E questi erano i Chem Lab, Atomic Automatic, che ci introducono in questa, speriamo, piacevole sorpresa del venerdì, della diretta d'azione del venerdì, e che fa anche un po' il paio con quanto è stato letto finora, soprattutto con l'ultimo documento. Questo piccolo racconto si chiama Caorso Esplode. Un impossibile diventa realtà, un racconto lungo, ma non troppo, di fantascienza. E anche questa non è troppa fantascienza. Ed è datato 1 maggio 1980, ovvero sia quando in Italia c'era ancora, esistevano ancora le centrali nucleari. Caorso ne era una di queste qua. Ricordiamo anche alle nostre latitudini, su Garigliano ne hanno costruita una, modificando per sempre l'ambiente, distruggendo sostanzialmente l'ambiente del, legato al bacino idrografico del, del fiume Garigliano, tra Campania e Lazio. E ci interessa leggervi questa piccola opera proprio perché è ambientata in un momento in cui non si era più vittime di quelle, diciamo, falsità sul nucleare che continuano a raccontarci, ma anche si era in un periodo in cui non esisteva, non era ancora avvenuto il famoso referendum del 1987, in cui il nostro, diciamo, la nostra società sembra aver essersi liberata del nucleare. In realtà non ci siamo liberati proprio di niente, anzi l'ansaldo nucleare in particolare è uno di quelle, di quegli strumenti di sviluppo di questa scienza mortifera come quella del nucleare, di un civilismo spinto. E l'ennesima farsa elettorale del 1987 ha fatto dimenticare un po' il ruolo centrale che invece il nostro paese, le strutture scientifiche di ricerca del nostro paese svolgono nello sviluppo della scienza mortifera. 1 maggio 1980. Fuori. Ore 13. Telegiornale. Primo canale. Ed ora i fatti di cronaca. Oggi, 1 maggio, giornata dei lavoratori, i terroristi non hanno rinunciato alle loro azioni criminali. Un piccolo commando ha fatto saltare due tralicci dell'alta tensione e danneggiato gravemente una centrale elettrica nella zona di Piacenza. La zona compresa tra Piacenza e Corte Maggiore, esclusi due centri, è senza elettricità, come pure la centrale nucleare di Caorso, che però ha un suo sistema di alimentazione alternativa. L'Enel prevede che l'energia verrà restituita nella zona, che comprende 20-30 mila abitanti circa, nel corso della giornata di oggi. Il criminale atto terroristico è stato rivendicato con una telefonata alla provincia di Cremona, un quotidiano locale, dal sedicente gruppo di contropotere territoriale, che ha già compiuto qualche azione minore in questa zona della Padana nel corso di quest'anno. Dentro. Ore 12:07, 1 maggio, nella sala del reattore. Improvvisa caduta di corrente di rete, cause ignote in centrale, abbassamento del 60%, poi del 90-95%, intervento automatico dell'alimentazione di emergenza e ripresa del funzionamento. Ore 12:27. Improvvisa caduta della rete di alimentazione di emergenza, blocco automatico del reattore, ma la potenza del calore residuo fa evaporare molta dell'acqua in circolo. Il reattore si riscalda, la sua temperatura arriva a livelli critici, nulla possono fare i tecnici né il computer. Per molti lunghi minuti all'interno del reattore gli elementi di combustibile atomico che lo alimentano, come la legna che alimenta la stufa, essendo venuta a mancare molta dell'acqua di raffreddamento in cui debbono restare costantemente sommersi, cominciano a fondere. Gli elementi, non più raffreddati dal continuo flusso d'acqua per mancanza di energia che la spinge, sviluppano un calore che li porta vicini al punto di non ritorno sulla strada della fusione. È il Loss of Coolant Accident, detto LOCA. È l'incidente più temuto in tutte le centrali nucleari del mondo. Da questo momento si può scivolare verso il Core Meltdown, cioè la fusione del nocciolo. Questa può sfondare sia l'involucro di acciaio, il suo contenitore interno, che il contenitore esterno in calcestruzzo. È il LOCA non contenuto, con fuoriuscita enorme di gas radioattivi. È l'incidente più grave che possa succedere ad una centrale, la catastrofe. Specie a Caorso, dove, per criminale stupidità, hanno costruito la centrale a due passi da molti centri abitati e a 20 km da due città di 100.000 abitanti. Non esistono precedenti incidenti simili, solo due o tre studi che ipotizzano la cosa. Il Flowers, inglese, e il Rasmussen e il Ford Mitra, americani. Comunque si tratta di rimettere in funzione l'impianto di raffreddamento, ad ogni costo, immediatamente, prendendo energia da dove è possibile, dirottandola dalla rete rimasta intatta. Rapide telefonate con il cervello Enel della zona, il capoturno e il responsabile della direzione tecnica dichiarano l'allarme interno. Suona la sirena per 60 secondi, si telefona al prefetto di Piacenza, a Colombo, il presidente del CNEN. Maschi, responsabile del DISP, dispositivo sicurezza e protezione, chiama il ministro Don Accatten e il suo padrino politico. Don Accatten chiama il ministro dell'interno e insieme decidono per l'embargo della notizia, cioè il silenzio totale. Poi le prime mosse. Il ministro chiama il prefetto di Piacenza e quello di Cremona. Vuole il silenzio totale. Spostamenti immediati di truppe, di pubblica sicurezza e di carabinieri verso Piacenza, con camion, tutti i camion reperibili per un'eventuale evacuazione e tutto il materiale di pronto soccorso immediatamente requisibile. Vengono messi al corrente solo due persone. Il professor Bolvani, che era il direttore del DISP, ma che è stato tolto perché era troppo puntiglioso, per metterci al suo posto il dottor Maschi, che se ne intende poco ma ubbidisce. Ora Bolvani serve, perché i contatti con gli americani ce li ha lui, e anche la competenza. È Armando Sanuti, dell'ospedale di Cremona, che non voleva la centrale, e lo chiamano per coordinare i soccorsi. Ancora due telefonate per il ministro, una a Roma, per la CIA, una intercontinentale, alla Westinghouse, dove, quando chiama il numero prestabilito, gli dicono che già sanno e che il team d'emergenza partirà in un'ora da Boston. Intanto il responsabile di Caorso è riuscito a ottenere energia per la rete e ha reimmesso acqua di refrigerazione in circolo, ma è quasi sicuro che sia troppo tardi e che riuscirà solo a ritardare il core meltdown, la fusione del nocciolo. Sa di avere almeno 12 ore, spera 24. Gli è stato detto che in non più di 10 arriveranno i super esperti americani. Quando saranno in 4, due della Westinghouse, uno della General Electric, sulle cui patenti è costruita Caorso, è un militare. I tre feriti colpiti con un gettito radioattivo nel momento cruciale mentre cercavano di fare il possibile con il cooling system vengono portati in un'ala speciale all'ospedale di Piacenza. Dopo il giro di telefonate, il ministro dell'interno insieme al primo ministro decidono di aspettare il parere degli americani prima di evacuare, per due ragioni. Una, che sperano ancora sia evitabile. Due, per evitare che il sicuro colossale panico. Ragioni confessabili. Poi ce n'è una terza, molto meno confessabile. Gli americani hanno premuto durissimamente per far congelare tutto sino all'arrivo dei loro uomini. Se scatta l'evacuazione, per le loro centrali in tutto il mondo è finita. I'm not gonna wear her some machine. Loro erano Circle of Dust con il brano Technological Disguise, giusto per collegarci pure con il racconto e bene o male il tema della puntata di oggi sul nucleare. Quindi dopo questa prima lettura passiamo ad un chiarimento. L'avevo detto prima che la compagna Elisa Di Bernardo aveva letto con ritardo l'articolo riguardo a quello che dovevano essere le conclusioni dell'udienza preliminare per l'udienza dell'operazione Ardire il 17 gennaio scorso, che anche io come redazione avevo preso da un altro blog e l'avevo pubblicato su redazione. la compagna ci ha fatto sapere che c'erano un bel po' di cose inesatte in quel testo, e quindi mi ha detto, ti mando uno scritto che ancora non è pubblicato perché l'ha scritto per un giornale, Ferrier, mi ha chiesto di pubblicarlo entro un paio di giorni, quindi lo leggiamo, e poi entro stasera o domani mattina viene pubblicato anche sul sito di Radiazione. Allora, leggiamo queste un po' di chiarimenti sull'operazione Ardire, scritti da Elisa, che salutiamo e abbracciamo. Allora, il 13 giugno 2013, con il nome di Operazione Ardire, vengono eseguite, oltre ad una quarantina di perquisizioni, ordinanze di custodia cautelare in carcere per 8 narcici in Italia: Katia, Sergio, Alessandro, Giuseppe, Paolo, Giulio, Stefano e Lisa, e due all'estero, Marco Kamenic e Gabriele Pombo da Silva, rispettivamente da 23 e 29 anni prigionieri, l'uno in Svizzera e l'altro in Spagna. Con l'accusa di 280 bis, 270 bis e 302, attentato, associazione sovversiva, istigazione, tutto con finalità terroristica, ma non per tutte le accuse sono le stesse, nonostante il denominatore comune sia secondo l'accusa di 270 bis, questi 8 compagni sono attualmente fuori dal carcere. Dall'anno scorso ormai sono 2 le procure che si stanno occupando di questi pericolosi terroristi. Concepito dalla PM Comodo di Perugia, questo castello accusatorio è stato infatti ereditato in parte dalla PM Pradella della Procura di Milano. Durante l'agosto 2012 Stefano ed Elisa vengono scarcerati, ma non viene loro permesso di uscire dalla galera, visto che contemporaneamente ricevono un altro mandato di cattura, sempre dalla PM Comodi, che in mancanza d'altro improvvisa un pericolo di fuga per giustificare il secondo arresto in un mese e mezzo. Per loro ricomincia tutto da capo, e a settembre, in sede del nuovo riesame, la procura perugina si dichiara incompetente territorialmente e a quella milanese vi subentra. Nel dicembre 2012, in sede di Cassazione, la dichiarazione di incompetenza territoriale da parte della procura umbra viene ufficializzata anche per Giuseppe, Sergio e Katia, che viene scarcerata immediatamente senza alcun tipo di restrizioni. Da questo momento le due procure sembrano aver vite indipendenti, e mentre Katia, Sergio, Giuseppe, Stefano ed Elisa vanno a costituire il filone milanese di indagini, Alessandro, Paola e Giulia continuano ad essere indagati dalla procura perugina con un particolare. Alessandro, per motivi a noi alieni e che ci rifiutiamo di comprendere dato che nei meandri della legge non siamo interessati ad entrare, è sotto entrambe le procure. Rispettivamente a febbraio e a marzo del 2013 Paolo e Giulia vengono concessi gli arresti domiciliari, che terminano senza restrizioni il 13 giugno 2013, dopo esattamente un anno di custodia cautelare. Quello stesso giorno si aprono le gabbie anche per Alessandro e Giuseppe, a cui però vengono date restrizioni quali divieto di espatrio, obbligo di dimora e 2 firme al giorno. A queste stesse restrizioni vengono sottoposti anche Stefano ed Elisa, scarcerati il 7 settembre, e Sergio, uscita dal carcere il 20 dicembre 2013. Attualmente, quindi, 4 compagni ed una compagna sono ancora sottoposti a queste pesanti restrizioni. Il 17 gennaio 2014 a Perugia ha avuto luogo, dopo essere stata rinviata diverse volte, l'udienza preliminare per Alessandro, Paolo e Giulio, non luogo a procedere in relazione all'accusa di 270 bis. Rimangono le accuse di danneggiamento con l'aggravante di terrorismo. Purtroppo le restrizioni per Alessandro non mutano, essendo indagato anche dalla Procura di Milano, che non ha ancora chiuso le indagini preliminari dopo oltre 3 anni. La situazione di Marco e Gabriel non è ancora così chiara da poter azzardare un vero e proprio aggiornamento. In questo anno e mezzo Marco non ha di fatto mai ricevuto alcun mandato di cattura e suo nome compare solamente nell'originaria ordinanza di custodia cautelare. A Gabriel invece non hanno mai dimenticato di ricordare il suo debito con la giustizia italiana, ma nella Germania, dove all'epoca di questa operazione repressiva era detenuto, nella Spagna hanno mai permesso una sua estradizione in Italia nonostante la sua richiesta esplicita. E poi finisce l'articolo dicendo: sperando di aggiornare con buone notizie il prossimo numero di Fenrir, che dovrebbe essere il lupo selvatico. Volevi dire no, noi voglio da questi microfoni oggi vogliamo dire che tutti gli stipendi che prendono questi magistrati, questi PM, questi inquirenti, via dicendo, gli auguriamo di farsene tutte medicine. È un minimo la medicina, il minimo. Oppure una bella barra. No, questo diciamo minimo. Le spese per un funerale, un tumore, improvviso, un arresto cardiaco. Un colpo di subito. Allora, dopo questi chiarimenti di Elisa, che da domani troverete anche pubblicati sul sito di Radiazione, ci ascoltiamo un brano di Dance or Die, Right or Wrong, e poi dopo si ritorna con il racconto che stavamo leggendo sul nucleare dedicato ad Alfredo e Nicola. Dunque, a Luna, attentati, caduta improvvisa di tensione e, poco dopo, sirena di allarme interno. Però in prefettura fanno il muro di gomma e attorno alla centrale hanno fatto dei cordoni. se 2 e 2 fanno 4, è successo qualcosa e hanno deciso di tenerlo nascosto, contrariamente al piano d'emergenza. Un piano che è una farsa, comunque, lo sanno tutti. L'anno scorso, quando dopo l'incidente di Harrisburg ho scritto un pezzo su cosa accadrebbe a Caorso, sono riuscito a farlo passare, ma poi dopo mi hanno completamente maciullato, castrato, alle solite. La verità è che di piani veri per un incidente grosso come la fusione del nocciolo e il core meltdown non ce ne sono, perché l'Enel vuole le centrali, è l'affare del secolo per l'Enel e non si ferma davanti a niente. E il CNEN è insieme a un controllore controllato, una situazione orrenda. Il Comitato Nazionale Energia Nucleare è insieme il propagandista e piazzista delle centrali per conto dell'Enel, della Westinghouse, della General Electric e per l'Ansaldo, aggiungiamo noi, quelli che hanno il nome sulle loro Jeep bianche, che hanno già gli uomini piazzati. Era inevitabile che pigliassero loro la situazione in mano. Avrebbero dovuto suonare anche l'allarme esterno, ma evidentemente non l'hanno fatto. Probabilmente è già tutto in mano al Ministero dell'Interno, per forza, e sono le 4 passato. E i giornali domani non escono. Cristo, Dio cane. Ma che gli può essere successo là dentro? Deve essere stato il taglio di corrente, ovvio, ma se si proteggono così e fanno muro a questa maniera, vuol dire che sono guai grossi. Io non me ne intendo abbastanza. Qua bisogna telefonare ad uno scienziato. Ho i numeri sul taccuino, ma che ce li ho a fare? Non mi piace molto questa situazione, devo dire. No, non mi piace per niente. Signor Ministro, abbiamo motivo di credere che un giornalista, ma la prefettura non ha invece convocato il comitato provinciale come suo specifico dovere. Dottore, c'è stata una serie di attentati. La centrale ha avuto dei problemi al seguito di questi attentati. La cosa cade dunque automaticamente sotto la giurisdizione del Ministro dell'Interno, il quale ha anche in questi casi la facoltà di dichiarare lo stato di emergenza locale o anche nazionale, se è il caso. Non voglio né posso dire di più allo stato attuale delle cose. Domani i giornali non escono e questo, francamente, è un bene. Io le chiedo anche formalmente un embargo della notizia fino alla mezzanotte di oggi. Lo imponga anche a questo suo giornalistuncolo, suo collaboratore, soprattutto a lui, nel modo più rigoroso. Ma è poi giornalista se si comporta così. Mi creda, le chiedo di collaborare, potrei anche imporglielo, ma mi limito a chiederglielo perché conosco il suo senso di responsabilità, dottore. Abbiamo bisogno di tempo e bisogno assoluto di evitare il panico. Le prometto che le telefonerò o le farò telefonare verso la mezzanotte e allora sarò in grado di darle notizie più precise e spero confortanti e quindi anche pubblicabili. Dentro sono tutti con le maschere. Dall'incidente nessuno è uscito, nessuno ha più toccato cibo o acqua. È stato allestito un locale apposito completamente sterilizzato al quale stanno ora portando cibo e anche acqua che è appena arrivata con un elicottero. Ce n'è abbastanza per il fabbisogno dei tecnici che rimarranno tutti in loco. È stato deciso dal dottor Maschi per le prime 24 ore a cominciare dal mezzogiorno di oggi. Al primo incontro informale tra alcuni tecnici e il dottor Maschi nella saletta mensa sterilizzata chiedono se sono stati avvertiti gli altri membri della direzione sicurezza e protezione, il DISP. Dottor Maschi, che non ha nel suo curriculum nessuna esperienza professionale nel campo della sicurezza dei reattori ed è a capo del DISP solo perché ha una tessera della Democrazia Cristiana e l'appoggio del ministro Donat Cattin, si sente attaccato e si trincera. risponde che sono in emergenza nazionale e che darà informazioni solo dopo la consultazione col ministro o col prefetto. Lui è anche l'unico che può comunicare telefonicamente con l'esterno. La voce si sparge in un baleno, il malumore sale, il morale cala. Alcuni vorrebbero sentire il dottor Bolvani, quello di Roma. E Maschi, a denti stretti, concede che il dottor Bolvani è stato contattato e che entro mezzanotte arriveranno i quattro esperti americani. Ma non sono neanche le 6 del pomeriggio. Alle 6 la piazza del paese è piena di gente. E c'è anche una sorpresa. Oltre ai soliti carabinieri ci sono anche 2 camion con dentro pulotti con fucili e lacrimogeni. Bello, un abitante, su un gradino un po' più alto racconta quello che sa alla gente quando si accorge dei 2 camion e di 2 in borghese che gli si sono messi dietro. Si mette a parlare in dialetto stretto, dice alla gente di andare a casa a prepararsi per andare via, che secondo lui è meglio, di mettere quello che gli serve di più sulla macchina o sul trattore, chi ce l'ha, e chi ce l'ha di aiutare anche gli altri vicini e di prendere quello che hanno di campeggio, tende, robe per cucinare, coperte, roba così. L'atmosfera è cupa, resa tesa dalla presenza minacciosa e insultante della polizia. La gente è in preda a un'incazzatura fredda e profonda. La voce si era già sparsa. Qualcuno fa qualche domanda pratica su dove andare. E però gli dice che è meglio andare via più lontano che si può, almeno a 20 km una di distanza. È meglio se verso sud. Tutti quelli che hanno parenti o amici, di telefonargli e chiedere ospitalità, ma di evitare a ogni costo Piacenza e Cremona, perché le strade si intaseranno e diventerà un casino. Allora si mettono d'accordo e si ritroveranno in 2 ore, alle 8, mentre si incrociano voci di uomini che si chiamano parenti o vicini. Uno dei 2 pulotti in borghese si è fatto portare un altoparlante e dice che vuole fare delle comunicazioni alla popolazione e che ha delle disposizioni da impartire a nome del prefetto di Piacenza. Con l'altoparlante che gracchia a tutta forza fa: il prefetto mi dice di comunicarvi di stare calmi, non c'è nessun pericolo immediato. A causa degli attentati criminali la centrale è stata danneggiata, ma è in via di riparazione. Non c'è nessun pericolo, non c'è radiazione. State calmi, non è accaduto niente di grave, sono stati effettuati i controlli, per voi non c'è nessun pericolo, rimanete calmi nelle vostre abitazioni, non avvicinatevi alla centrale, prima di mangiare però lavatevi le mani, la verdura e la frutta, non mangiate carni, pane e cibi non facilmente lavabili che siano state esposte all'aria aperta, non portate bestiame al pascolo. Questo testo è uno dei 4 volantini prestampati, stupido, vago e vile, ispirato dal DISP e dal CNEN. Cosa cazzo ci vuol dire questo volantino? Pelò, che un volantino l'ha avuto in quel momento, finito di leggerlo, lo alza all'altezza del viso perché la gente veda e lo strappa, prima in 2, poi in 4 e poi ancora in 1000 pezzi. È merda, ecco cos'è. È merda. Questi vogliono solo i voti. Tornando a casa da Caorso, quelli di San Nazaro e di Zerbio, 2 frazioni vicinissime alla centrale, trovano un gippone con altroparlante che più o meno gli dice di stare calmi, con un caramba che gli distribuisce lo stesso volantino giallo. Quasi tutti si rifiutano di prendere il volantino, molti neanche si fermano a sentire l'altoparlante. Pino, che decide di spingersi il più vicino possibile con il Geiger, trova tutte le stradette bianche vicino alla centrale pattugliati dai soldati a un mezzo chilometro dalla centrale. Dopo 2 o 3 tentativi anche in strade che quasi non esistono, capisce che la centrale deve essere tutta circondata da una cintura di truppe e quindi va a casa sua a preparare le cose da portar via. Radar. vacuum at some point before we got here. Is this hyper real? Is this hyper real? Mutation! Loro erano Eterni Teenage Riot con il brano Is This Hyperreal. Ora si continua con la controinformazione. Si va a Pisa, dove ci sono state delle perquisizioni al garage anarchico. Leggiamo il testo che prendiamo da informazione. Su un piatto della bilancia, l'ennesimo progetto latore di distruzione e avvelenamento, tanto abominevole quanto concreto. Gli sforzi di presentarlo come ordinaria amministrazione, quale lieto fine dell'avventura nucleare italiana, malcelano l'abominio di un'eredità che contiene in sé il peso di una millenaria civilizzazione e domesticazione dell'esistenza. Stiamo parlando dello sversamento iniziato lo scorso ottobre e tuttora in corso di 750.000 litri di acqua radioattiva nel canale dei Navicelli, un canale che da Pisa sbocca nel mare vicino a Livorno. L'acqua proviene dalla piscina di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale del CISAM, Centro di Forze, Studio e Applicazioni Militari, in fase di smantellamento. Sull'altro piatto un monopolio di oppositori, quali scansati professionisti del dissenso democratico e delle vie istituzionali, si sono organizzati e hanno provato a spostare l'ago della bilancia. Vari tentativi da parte degli anarchici di smerdare la campagna mediatica della trasparenza del procedimento, portata avanti dal CISAM in collaborazione con ARPAT, campagna a colpi di rassicurazioni, dati e ovviamente di falsità, ipocrisie e quell'odiosa tranquillità di chi avvelena la terra e pretende a docile silenzio in cambio di partecipazione e morte. E così presidi, concerti, volantinaggi, manifestazioni di piazza, poco, tuttavia, hanno raccolto in termini di riscontro. In tutto ciò, qualcheduno ha pensato bene di esprimere il proprio dissenso in altri modi. Prima è comparso un manifesto sui muri della città che usano i luoghi che usando i luoghi di Arpat e Comune di Pisa metteva in allerta la popolazione circa i pericoli connessi a un tale sversamento. Poi il 26 novembre un gruppo di ignoti incappucciati che ha fatto irruzione all'ARPAT, sbattendo in faccia agli impiegati della devastazione ambientale le proprie responsabilità, lasciando scritte e uscendo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ago della bilancia non ha neanche sussultato, questo è chiaro a tutti. Di fronte a chi ci propina morte e devastazione c'è stato solo uno stizzito rigurgito di rabbia, niente più. altro sarebbe restituire ciò che questi signori elargiscono, come alcuni dei nostri generosi compagni hanno saputo fare, a Fede Nicola azzoppando Roberto De Norsi, Marco Kamenic sabotando con la dinamite i cantieri delle centrali atomiche e tanti altri ribelli in passato come adesso, opponendosi con una miriade di lotte diverse alla morte nucleare. Non è mancata rapida la reazione da parte delle istituzioni, che hanno condannato il gesto come opera dei soliti professionisti del terrore, invocando solerte la grave mannaia della repressione a stongare gli animi di questi incappucciati che hanno osato esprimere conflittualità in un contesto pacificato dove lamentele e stanze vengono sapientemente recuperate. Ed eccola la mannaia. In questo caso ricorda più un giocattolino di plastica che una vera e propria mannaia. Il 4 febbraio scorso agenti della Vigos di Pisa hanno perquisito le abitazioni di una compagna e di un compagno del garage anarchico, nonché la stessa sede. Alla ricerca di prove schiaccianti hanno sequestrato abiti, computer, hard disk, opuscoli, volantini, dossier e copie del foglio locale controtempo. Le accuse contrastate sono minaccia a pubblico ufficiale, imbrattamento, falso e procurato allarme. Il sistema produce, sfrutta, inquina, contamina e si arricchisce, mentre le conseguenze di questi processi si manifestano nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, nel cibo di cui ci nutriamo. Tutto ciò non merita altro che odio e rabbia, motori di una risposta organizzata contro questa faccia tanto malvagia quanto vigliacca e disgustosa del dominio tecno-industriale. Per conto nostro ribadiamo la ferma volontà di continuare a contrastare questo progetto. La loro mannaietta di plastica non può che rompersi sulle nostre teste dure. Non un passo indietro, solidarietà rivoluzionaria con i compagni prigionieri in lotta, garage anarchico. Come vediamo, manco a farlo apposta nelle notizie che mandiamo di controinformazione, riecheggiano quelle che sono le suggestioni che stiamo proponendo, anche in solidarietà e soprattutto a Nicola e a Fero. Allora, dopo aver letto questa ennesima notizia di controinformazione che arriva da Pisa, che io conosco bene purtroppo la situazione là, una cittadina carina, una città vetrina che non vuole essere disturbata da chi ha da dire altro, ma avvelena il territorio e le cui amministrazioni responsabili anche il futuro premier toscano sa bene. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Yekman Nation, Bastards West Monster Zero, e poi dopo si torna qui e si torna con il racconto che stiamo leggendo ora oggi in dedicato ad Alfredo e Nicola. We'll be right back. ore 20. Caorso ha un aspetto irreale, sembra quello di 30 anni prima, quando c'erano ancora le professioni e le novene di maggio. Ci sono candele dentro le case e sui davanzali, qualche televisione a tutto volume, vanno con le batterie delle macchine. Hanno messo un televisore alto su un camion, funziona con le batterie del camion stesso. Ci saranno attorno un centinaio di persone, o forse di più. Subito fuori dal paese, nelle strade laterali, si stanno formando colonne di macchine, camioncini e trattori pronti a partire. Un occhio attento noterebbe la presenza di gente in città e di giornalisti. Ma il dottor Vergani ormai ha un passo avanti e sta in questo momento superando il posto di blocco messo sulla strada più ovvia che va verso Piacenza per la gente che esce da Caorso. Telegiornale, primo canale. Ed ora politica interna. La centrale nucleare di Caorso, lievemente danneggiata dai criminali attentati che hanno fatto improvvisamente mancare l'energia elettrica a tutta la zona circostante, è in fase di riparazione. Si prevede che l'energia elettrica potrà essere ripristinata in tutta la zona nelle prossime 24 ore. Si attendono, per le prossime ore, 4 super esperti americani che daranno il loro parere sulla maniera più rapida di ripristinare l'impianto di refrigerazione. Come misura puramente precauzionale, le autorità hanno fatto sgomberare la zona immediatamente circostante la centrale, nel caso, per quanto remoto, che i lavori di riparazioni possano far sfuggire sostanze radioattive allo stesso impianto. Venezia! Un coro di imprecazioni e grugniti si leva dalla gente che aveva ascoltato in religioso silenzio. Le menzogne televisive sgomentano e spaventano gli astanti. Belò gira fra la gente e dice a tutti che chi non ha trovato amici o parenti dove alloggiare gli conviene di andare al centro allestiti a Corte Maggiore. Poi decide di andarci lui, subito, sulla sua macchina. Al posto di blocco verso sud saranno fermati. Ore 20 e 30 circa. Le due frazioni di Zerbio e San Nazaro sono vuote, così come si presume tutte le cascine della zona. Un po' più di 1000 abitanti. Caorso si sta svuotando, sono 5000 abitanti per il solo paese e nonostante la pazienza e la disciplina di tutti, le strade di uscita verso il sud sono intasate. Le varie colonne si sono date diverse mete. A San Pietro in Cerro e a Busseto, due paesini della fascia dei 15-20 km, i parroci hanno messo a disposizione le chiese per la notte. A Cadeo e Valconasso, paesini del sud-ovest, anch'essi sulla fascia dei 20 km, dall'altra parte dell'autostrada del Sole, sono state messe a disposizione le scuole. Chi non ha ancora posti dove andare si raggruppa a Corte Maggiore, dove il sindaco rivolgerà per radio un appello a tutti i sindaci e parroci della zona per aprire chiese e scuole. Appena la macchina, invece di andare al campo organizzato dai militari, vanno direttamente dal sindaco. Poi inizia un collegamento con un paio di radio libere di Piacenza e una di Cremona, dove si dice che ci sono 6000 persone che hanno bisogno di un tetto per la notte. Poi, con la voce rotta dall'emozione e dalla rabbia, qualcuno continua. Non so se l'abbiano bisogno per la notte o per la vita, non so se ritorneremo più alle nostre case. Chiedetelo al prefetto di Piacenza, chiedetelo al ministro, chiedetelo a quei criminali della centrale, chiedetelo ai professori che facevano le tavole rotonde, che dicevano che non c'era pericolo, che avevano previsto tutto, come a Seveso, come alla centrale americana. Ore 21. A Piacenza e Cremona la gente comincia a chiamare il 113, le radio, i giornali. A Corte Maggiore la tendopoli allestita è presto piena. Vengono messe a disposizione tutte le scuole, le chiese e gli edifici pubblici disponibili. I privati collaborano mettendo a disposizione le case vuote, coperte, genere di conforto. Dentro le nelle immediate vicinanze della centrale si gira con le tute e con le maschere. Si calcola che la zona abbia già assorbito tanti millirems di radiazioni quanti ne assorbono normalmente in un anno. Gli abitanti Se gli abitanti di Zerbio e San Lazzaro, un migliaio in tutto nelle due frazioni, fossero rimasti lì nelle prossime ore, molti, decine, sarebbero morti di cancro e di leucemia in una o due settimane, e altri, molti altri, negli anni a venire. Lentamente ma inesorabilmente, in uno stiricidio di sofferenze, di vite per 5, 10, 20, 30 anni. E non è che l'inizio. In prefettura, dove hanno il filo diretto con la centrale, la paura è palpabile. Non si può nascondere. Col vecchio intuito mi rendo conto che la centrale è condannata, che una fetta di campagna è contaminata già e che là dentro stanno lottando per evitare la catastrofe, la fusione del nocciolo, il famoso loca, anzi il loca non contenuto, cioè la possibile spaccatura del contenitore e fuoriuscita di gas radioattivi in una esplosione di vapore così violenta e spaventosa che i gas possono arrivare fino a Piacenza e Cremona e anche più lontano. Ore 22. Il jet speciale da Boston atterra in perfetto orario sulla pista dell'aeroporto milanese di Linate. Cielo limpido, debolissimi venti nord-nord-nord-est. Ad attendere tre civili e militare ci sono un paio di persone e due macchine con gli autisti. Dopo una rapida stretta di mano salgono tutti sulle due Mercedes nere che partono a tutta velocità verso il campo da elicotteri. I sei salgono sull'elicottero che parte immediatamente verso sud, direzione Caorso. Nello spiazzo vicino alla centrale hanno approntato uno spazio dove l'elicottero atterra senza difficoltà. I sei si mettono tute e maschere e si avviano rapidamente verso la palazzina degli uffici, dove sono attesi nella saletta delle riunioni. Altre strette di mano, rapide senza convenevoli. Una breve relazione in italiano da parte del professor Maschi, direttore del DISP, e una traduzione simultanea in inglese. Uno dei tre civili fa qualche domanda, poi si chinano sui diagrammi con le maschere che li impacciano non poco. Decidono un sopralluogo, la sala del reattore allargata di acqua radioattiva. Gas radioattivi contenenti xenon e krypton vengono rapidamente succhiati dal sistema di ventilazione ed espulsi all'esterno. Il gruppo resta quel tanto che basta per rendersi conto, non un minuto di più. Il core meltdown, la fusione del nocciolo, è ormai inevitabile. Si può solo cercare di rallentarla. Ci sono ancora 12 ore sicure, ma non molte di più. La doppia caduta di tensione, situazione unica ed estremamente improbabile, ha trovato il computer impreparato e troppo rigido nella risposta. I sistemi automatici di sicurezza irreversibili non hanno dato una risposta adeguata e a quel punto si era ancora al 50% per il meltdown, ma alcuni errori del fattore umano l'hanno reso prima molto probabile e poi inevitabile. I sei tornano in saletta dove hanno un breve scambio. Gli americani vengono a sapere che l'evacuazione delle zone immediatamente circostanti è già un fatto. Consigliano allora l'evacuazione immediata di tutti i paesi nel raggio di 15 km e l'evacuazione scaglionata delle due città nel raggio di 20 km, Piacenza e Cremona. Piacenza può essere evacuata con l'autostrada del sole, Cremona soltanto con la 21. Uno dei due italiani, Maschi, chiama direttamente il Ministero dell'Interno per comunicargli la situazione. Beh, ma se evacuiamo Piacenza e Cremona, fa il ministro, per il resto siamo a posto, no? Non è che può andare più in là. Non ci possiamo fare illusione, signor ministro, fa il dottor Maschi. Lei si ricorderà forse che si diceva che in caso di incidente di questo genere, il loca, è un'intera regione quanto la Pennsylvania viene coinvolta, quindi dipende da molti fattori, quasi tutti imprevedibili. Siamo di fronte a un loca non contenuto, il che vuol dire che siamo abbastanza certi che il calore è tale da rompere il contenitore interno di acciaio e quello esterno di cemento. Dipende molto da come queste due rotture si verificheranno. Una esplosione di vapore che proiettasse all'esterno una parte del nocciolo fuso sarebbe la peggiore. Avremmo una nube radioattiva tremenda che coprirebbe Piacenza e Cremona e andrebbe anche oltre, molto oltre, dipende dai venti. Quella sarebbe una catastrofe. Qualche centinaio di morti subito, i più vicini ed esposti, e poi migliaia, decine di migliaia di cancri, leucemie per 30 anni in tutta la zona, una zona vastissima, potrebbe arrivare sino a Milano, questa è la catastrofe che non poteva e non doveva accadere. Ah, ma questa è follia, dottor Maschi, ma queste cose non le avete mica dette nel rapporto, quello di Don Hacatten. Parlavate al massimo di qualche perdita di radioattività, dicevate che una cosa del genere era impossibile. Me lo ricordo bene anch'io, il ministro dell'industria continuava a citare il presidente del CNEN, quello di prima, Clementel, mi pare, che andava dicendo che un reattore nucleare non può esplodere, che al massimo si ferma, e questo loca che cos'è? Non è mica un'esplosione. Non doveva succedere, non poteva succedere, c'era una probabilità di 1 su 100 milioni, era praticamente impossibile. Il doppio attentato però ha modificato i fattori in campo, anche il computer è stato preso alla sprovvista, anche gli americani dicono che è praticamente successo il matematicamente impossibile. Sì, e loro non hanno avuto Harrisburg l'anno scorso, solo che a loro gli è andata bene. Altro che 1 a 100 milioni, non possiamo perdere tempo in recriminazioni. Dottor Maschi, lasciamo da parte almeno per ora. Insomma, volete l'evacuazione di Piacenza e Cremone, di tutta la zona interna a un raggio di 20 km subito, nel cuore della notte, praticamente senza preavviso? E sono 250.000 persone, mi dice il prefetto. Ma si rende conto di cosa vuol dire? Ma è come una guerra! E non ci sono nemmeno i mezzi, e poi il panico, finisce che si ammazzano tra di loro, e dove li mettiamo? Dottor Maschi, dove li mettiamo? Questa è un'evacuazione di massa, questo è un esodo, ci vogliono i treni, sì, ci vogliono i treni che sono più controllabili, e la gente la portiamo tutta a sud, visto che dite che i venti è più probabile che tirino a nord-nord-est, è così, no? Sì, è così. Senta, mi faccia il punto e non mi dia le spiegazioni, il perché, il percorso, mi riassuma in due parole che cosa può succedere quando io parlo col primo ministro che sta venendo qua da me, chiaro? È chiaro che è un'emergenza nazionale, abbiamo già chiesto aiuto agli americani, sono già partiti in colonna con tutti i mezzi che hanno alla base di Livorno, ed è un paio di basi in Veneto, è questione di un paio d'ore o almeno tre, però ci vuole coordinazione. Cristo, meno male che abbiamo i treni, quelli gli americani non ce l'hanno. Blocchiamo tutto e ne facciamo arrivare uno ogni quarto d'ora, dalle 3 alle 5.000 persone, no? Vabbè, sono problemi nostri. Senta, mi faccia questo riassunto per favore. Siamo alla fase in cui il calore produce una pressione che romperà il contenitore interno di acciaio e quello esterno di cemento. Siamo ragionevolmente certi che resisterà ancora per 12 ore e su quello garantiamo, ma non molto di più di 24 ore. Dipende da come avverrà questa rottura. Un nocciolo fuso pesa più di 100 tonnellate. Se sfondasse la base di cemento e sprofondasse, sarebbe la nostra fortuna. La maggior parte dei gas radioattivi rimarrebbero nel terreno e perderemmo un 50 anni al massimo tutta la zona, ma eviteremmo migliaia di morti e la diffusione dei gas radioattivi in una zona grandissima. Sarebbe come la storia di quel film americano, solo che il nocciolo può sprofondare di qualche decina di metri. Ma l'ipotesi più probabile è che il contenitore di acciaio si rompa per la pressione e abbiamo uscita di gas radioattivi, dipende da quanti ne escono e da come. Il peggio sarebbe se ci fosse un getto tipo esplosione che buttasse fuori una parte del nocciolo fuso, quella sarebbe la catastrofe più grave. Dovremmo evacuare Milano allora. Cosa? Ma è mostruoso, è inconcepibile. Speriamo di non arrivare a tanto. Noi pensiamo che le evacuazioni di Piacenza e di Cremona possano bastare, ci aspettiamo in sostanza una forte fuoriuscita di gas radioattiva, ma solo una piccola parte di nocciolo. Sarebbe ancora meglio evacuare per un raggio di 30 km attorno, molto dipende dai venti e dal momento della fuoriuscita. Maschi, ma le persone, no? Alle persone che succede? Bisogna evacuare tutti e subito, almeno fino a Piacenza e Cremona comprese. Ci sono due rapporti, il Flowers inglese e il Ford Mitra americano, che ci danno qualche indicazione ipotetica. È solo ipotetica. Ebbè, ma non citavate sempre voi nelle commissioni il rapporto Rasmussen? Eh sì, ma negli ultimi mesi è stato giudicato troppo ottimistico per la gente. Se non riusciamo ad evacuare, ci possono essere qualche centinaio, qualche migliaio di morti di cancro e leucemie nelle prime settimane, poi ancora migliaia, forse decine di migliaia per un periodo di 30 anni. Ci saranno difetti genetici e malformazioni genetiche nelle generazioni successive. Immediatamente, però non molto, qualche decina di morti tra i più esposti e deboli. Ma che il pericolo è che, nonostante l'evacuazione, se la nube radioattiva, che è un po' come la nebbia leggera, si sposta portata dal vento, quel che le ho descritto può succedere laddove la nube arriva o le nubi in aree molto vaste, magari a 50 km, dipende dal vento o dai venti, al momento della fuoriuscita nelle ore successive. Per ora possiamo solo dire, conoscendo la meteorologia della zona, che le sue caratteristiche riguardo al vento, la cosa migliore è quella di portare gente a sud. Solo che questo lascia aperto il rischio che la radioattività possa arrivare sino a Milano. Questo francamente è il nostro incubo. Concludendo, le nostre raccomandazioni sono per l'evacuazione, che le ho detto, per un raggio di 30 km, per un raggio che si estende diciamo fino a 60-80 km, valgono le precauzioni che conosce: restare in casa, non mangiare cibi e quelli dei volantini, insomma. E mi assicura che abbiamo 12 ore. Beh, per quanto ci è dato di sapere, sì. Poi, rivolto a nessuno in particolare nella stanza, con voce stanca, quasi roca, fa: vogliono che andiamo via di qua, tutti e subito. E forse, e fosse tutto, vogliono che andiamo via verso sud, per, sulla strada per Busseto e Roncole, e che troviamo magari altre strade di campagna, ma non possiamo toccare l'autostrada, quella che deve rimanere libera ad ogni costo per sgombrare Piacenza. Dio o chi per esso solo sa cosa succederà nelle prossime ore. Dice che abbiamo 12 ore sicure e noi ci lasciamo i paesini a sud della zona di Fidenza e Salso Maggiore, dove c'è un camping. Lì facciamo quartiere generale, ma non dobbiamo assolutamente entrare nell'autostrada che è per lo sgombero di Piacenza. Noi siamo 30.000, non di più, e con macchine e trattori. Piacenza sono 100.000 e gente di città che è meno organizzata e capace di cavarsela. Dice che se qualcuno entra sull'autostrada, i soldati hanno consegna di sparare, perché se si blocca quella, è finita per tutti. We'll be right back. ore 23. Telegiornale 1 e 2 e radio nazionali e locali. Lo speaker dice: signori e signori, la prima notizia di questa sera è una notizia grave che purtroppo viene a funestare questa giornata del primo maggio. La centrale nucleare di Caorso, presso Piacenza, come voi già sapete dalle edizioni precedenti, è stata danneggiata da una serie di attentati terroristici avvenuti nelle sue vicinanze. Questi attentati, che hanno bruscamente tolto per ben due volte l'energia elettrica vitale per la centrale stessa, hanno innescato una serie di meccanismi di danneggiamento ora in corso. La centrale è ferma, certo, ma il danneggiamento è tale che, nonostante ogni intervento, non si potrà evitare una certa perdita di materiale radioattivo. Sono state quindi prese tutte le misure necessarie per evacuare la zona circostante, grosso modo la zona che va da Cortemaggiore a sud, a Pizzighettone a nord, dall'autostrada del Sole ad ovest, a Castelvetro ad est. Il caso impossibile, che aveva, a detta di tutti gli esperti mondiali, una probabilità su 100 milioni di accadere, si è verificato. È come se sulla zona si abbattesse un meteorite dal cielo, ed è proprio quello che gli esperti pensano, che sia un evento così improbabile ma anche così inevitabile come la caduta di un meteorite. Le popolazioni limitrofe, già avvisate, stanno già evacuando la zona con una calma e un autocontrollo che fanno loro onore in questo momento per loro così difficile e tormentato. La cosa più importante per le migliaia di persone colpite e per i loro congiunti è mantenere la calma, conservare la calma. Ogni mezzo sarà approntato per la sicurezza della popolazione, anzi, il più è già stato fatto. Nelle prossime 12 ore, per motivi puramente precauzionali, per evitare anche una lontana possibilità di contaminazione nucleare delle zone densamente popolate, anche se molto lontane dall'area di immediato pericolo, anche gli abitanti di Piacenza e di Cremona verranno temporaneamente allontanati dalla zona. A questo proposito vi parlerà ora il ministro dell'Interno, che già da ore sta mettendo in opera un piano d'emergenza. Come avete già sentito, l'impossibile è accaduto. La follia terroristica ha colpito perversamente e ha avuto ragione della ragione, dei controlli, dei dispositivi di sicurezza, delle salvaguardie che facevano di Caorso una centrale nucleare sicura, un punto fermo nella nostra produzione di energia. Ora tocca a noi, con calma e fermezza, correre ai ripari. Da più di un'ora i quattro maggiori esperti mondiali sono a Caorso e stanno studiando insieme ai nostri massimi scienziati come riparare il danno. Noi, per parte nostra, dobbiamo prevenire possibili danni alle persone nel caso di una fuga di gas radioattivi e quindi abbiamo approntato alcune misure che qui vi elenchiamo con la richiesta, anzi con la sicurezza, che tutti voi ci aiuterete in quest'ora di pericolo per i nostri connazionali nelle zone di Piacenza e Cremona. Tutte le campagne per un raggio di 15 km attorno alla centrale stanno per essere sgomberate. Sono circa 30.000 persone che si stanno avviando in questo momento sulla strada di Busseto, Roncole, Soragna, che poi punteranno su Fidenza e Salso Maggiore. A tutti gli abitanti della zona chiediamo di collaborare. Un tetto, un letto, tenete le strade sgombre. Ai sindaci, aprire le scuole. Ai parroci, aprire le chiese, gli alberghi. Non entrate nell'autostrada da Casal Pusterlengo a Parma. Abbiamo dibattuto a lungo prima di decidere se allarmare le popolazioni delle due grandi città, Piacenza e Cremona. Non c'è pericolo per loro, ripeto, per loro è soltanto una misura preventiva che ci siamo decisi a prendere. Ma treni speciali stanno già partendo da Milano. Abbiamo bisogno della collaborazione della popolazione, in particolare degli abitanti delle due città. Collaborate con le forze dell'ordine e con l'esercito. Centinaia di autocarri, chiudete le case con cura. Megafoni altoparlanti, lasciate le vostre case per due o tre giorni come pura misura precauzionale. Prima le donne e i bambini. Piacenza per l'autostrada del Sole, Cremona per la A21. Rimarremo in diretta senza interruzioni nelle prossime ore con messaggi di ogni tipo. E ora però vorrei che ascoltasse il professor Colombo, direttore del CNEN. l'Istituto Italiano Preposto all'Energia Nucleare, la massima autorità nazionale in campo, che vi dirà in termini semplici e comprensibili cosa è successo e cosa si deve fare. Centro di documentazione di Salso Maggiore, ore 6 di mattina. Sì, sono Radioazione, il professor Sanuti mi conosce, vorrei parlare con lui. Guardi, aspetti, è in fase di decontaminazione, è tutta la notte che è in piedi qui, è l'unico che sa qualcosa, glielo vado a dire. Qualche minuto dopo, venga, mi ha detto di farla venire. Professore, volevo qualche notizia che non fosse la mappa, la pappa che mandano in onda da ore. Volevo sapere, insomma, la radiazione, è vero che ha già fatto vittime, si dice in giro. I primi morti sono di un paio d'ore fa, lo sapeva. Certo, ci sono gli altri casi, specie la gente di Zerbe, di Caorso, dei paesini vicini, ma il peggio deve ancora venire, il peggio verrà nelle prossime settimane, nei prossimi anni. Lo sa che ci saranno cancri ai polmoni, le leucemie per altri 30. Lo sa che ci saranno malformazioni genetiche, malformazioni ipergenetiche, capisce? Per generazioni. E ma allora tutti quelli che vivevano vicini, la centrale già emetteva radiazioni. Lei ha sentito il prefetto in queste ore e le evacuazioni? E beh, che cosa si immagina? Povera gente alla quale ha mentito. Quel che ha sentito in giro è vero, quel che so io. Ci sono stati scontri a fuoco, gente che cercava di farsi strada, scontri con la polizia, gente impazzita, l'autostrada è bloccata, anche da Fidenza qua la strada è bloccata. La gente va su da piedi, pare che solo i treni funzionano ancora e sono stati assaltati più volte. Ma la truppa li difende e spara, riesce a riempirli e a farli partire. Dicono che da Piacenza usciranno quasi tutti. E gli elicotteri? Oh! Gli elicotteri. Quelli funzionano. Tranquilli. Portano via la gente che conta, atterrano vicino alla prefettura. Anche loro sono stati attaccati, ma c'è il filo spinato. Ma lì non è facile entrare. Invece dicono che il reattore è ancora per poche ore, che dopo mezzogiorno ogni ora è buona. Se esce solo gas va bene, se viene fuori a spruzzo come un geyser, anche una parte del nocciolo, allora dipende dal vento, allora ci va di mezzo anche Milano. Ma questo però non lo dica alla radio, se no chi la ferma più la gente? Non lo dica, per amor del cielo, che è qui arrivato davvero il tempo di pregare. Ma lei si è cambiata i vestiti, è stata a Caorso, no? Allora, per l'amor di Dio, allora si cambi e poi torni, le faccio trovare un bel caffè, le darò 2 o 3 nozioni per evitare la contaminazione, soprattutto per la gente dove arriverà la nube portata dal vento. Ore 13:37, 2 maggio 1980. L'oca non contenuto alla centrale di Caorso, un'esplosione di vapore provoca una falla nel contenitore proiettando verso l'esterno una parte del nocciolo fuso, sfondamento del contenitore di cemento e fuoriuscita di grandi quantità di gas radioattivo contenenti iodio 131, cesio e rutenio. Lo iodio 131 provoca cancri alla tiroide in un raggio tra i 15 e i 25 km. Dalla centrale qualche dozzina di casi mortali tra le migliaia di ritardatari e rimasti soprattutto nell'area metropolitana di Piacenza e Cremona. Cancri, sempre la tiroide, per lo più non mortali nei successivi 10-20 anni. Il rutenio provoca cancri al polmone in misura minore. Iodio, cesio e rutenio nella nube nucleare coprono un'area grossomodo comprendente Cremona ad est e Piacenza ad ovest. I venti che soffiavano verso nord hanno spinto la nube fino a lambire Casal Pusterlengo, a sud Corte Maggiore. Questa è l'area maggiormente colpita, sulla quale i residui radioattivi depositatisi al suolo, la cosiddetta pioggia radioattiva, ne fanno terra morta, pericolosa per uomini e animali, per un periodo di almeno 30 anni. Le radiazioni del cesio, ad esempio, ci impiegheranno 30 anni per dimezzarsi. In una zona più vasta, grosso modo un raggio di 100 km della centrale, i cancri e i leucemie di quel tipo saranno presenti nei successivi 30 anni, quindi anche nella zona che comprende Milano, in misura massiccia i cancri, ma non prevedibile. Sono infine previsti migliaia, se non decine di migliaia di difetti genetici nelle generazioni successive, probabilmente fino alla terza o alla quarta generazione. E con questo abbiamo concluso oggi la diretta d'azione. Abbiamo preferito fare questa lettura anche per fare un discorso un pochino più ampliato attraverso le parole di qualcun altro su quelle che possono essere le cause del nucleare, non ripetendo sempre le stesse cose che sono ovvie, quindi attraverso un racconto. Un racconto di fantascienza, anche se relativamente per fortuna non è successo, ma succede distillando, non dimentichiamoci. Non è successo in Italia, perché il racconto è dell'80, però qualche anno dopo c'è stato Chernobyl che ha fatto la stessa pari e c'è anche il continuo avvelenamento del territorio delle persone laddove ci sono le centrali nucleari, ma anche dove non esistono. Non dimentichiamo le cose che abbiamo anche affrontato qui a radioazione, sì, interramenti di rifiuti radioattivi, di scorie, i famosi treni. Quindi, vabbè, parlare tra di noi del discorso del nucleare a volte sembra superfluo, però approfittando che questa è una radio che va sul web e può essere ascoltata da chiunque, ebbene anche. E approfittando che i due nostri compagni stanno scontando pene dai 9 ai 10 anni per aver impedito la continuazione, cercato di impedire la continuazione. Almeno per un po' di tempo, perché poi l'intento di Alfredo e Nicola era quella di ferire, non di uccidere il tipo, perché si ricordasse, perché poi la ferita te la porti dietro per tutta la vita. Se muori, subentra un'altra persona, quindi. Noi abbiamo una solidarietà, ma una solidarietà sentita proprio perché noi non vogliamo vivere in un mondo avvelenato, minacciato, vogliamo vivere in un mondo, come si diceva prima in un manifesto letto precedentemente, non aspettiamo la rivoluzione, l'abbiamo già cominciata. E quindi per oggi finisce qui la diretta, una buona lunga diretta d'azione del venerdì. Siamo partiti alle 5:30, siamo arrivati alle 8:30, quindi 3 ore belle, piene. Ricordo l'appuntamento prossimo, che per lunedì 17, dove ci sarà la controinformazione, ci sarà di nuovo la lettura, però questa volta si parlerà di pirati, di Valerio Evangelisti e di Tortuga. E ricordiamo che chi si offende è un petente sempre, ma soprattutto che oggi 14 febbraio ricordiamo che il Santo Valentino, tanto oggi consumato, è stato decapitato. Vabbè, che giusto per finire. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@vistici.org è la mail per mandare comunicati, scritti. Quant'altro volete che venga pubblicato sul sito di radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggervi la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast, dove potete anche scaricarvi un po' di roba attraverso la pagina dei download. La radio o l'accendete dal banner oppure dal lettore che sta sulla sidebar a sinistra sul sito di radiazione, il lunedì e il venerdì dalle 17. Ora vi lascio con un brano dei Byton Helix e con questo vi dico buonasera, e chi si offende è un fetente. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Frequenze di azioni in diretta, Frequenze di azioni in diretta.